Una altro convulsa ieri prova di questa tumultuoso andare senza una direzione precisa della fine della legislatura. I giornali oggi dedicano l'apertura in maniera varia e diversa, prendo dal Corriere della Sera: Berlusconi rinviare le elezioni. Perché? Perché ve l'ho detto ieri a Porta a Porta, avete bisogno di me e io non mi tiro indietro, più ore mi darete in televisione e più io accoglierò il vostro appello, salvarvi, mi vuole salvare. E capire che per tutti è una cosa normale, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Va bene, va, non voglio ironizzare troppo, perché un po' di ascoltatori hanno iniziato a dirmi: ma sei diventato ossessivo, un anti-berlusconiano, è contro la linea editoriale, è contro di qua, è contro di là, non so se sia contro la linea editoriale. Però, ragazzi, se dopo 18 anni molti di voi reputino che sia una vittima colui che ieri ha recitato questa parte a Porta, e non sia vero che ha detto cose liberali e ha fatto cose totalmente liberali, se pensate che non sia vero che sia un grande giocoliere delle parole, un ingannatore di folle, uno che ha solo perseguito i propri interessi, che vi ha promesso la riforma della giustizia, ha fatto solo i casi suoi, eccetera eccetera, se pensate che sia ossessione il dirlo dopo 18 anni, beh, ovviamente abbiamo opinioni diverse.